buon viaggio, signore! Aio, lasciate un pezzo! Fermi tutti, quello è mio, Ma babbo! Ma che parti sempre, sì! Sempre in mezzo me lo trovo! Ragazzi, sul binario 3, parti in locale per Empoli! Al binario 3! Scoprillo immediatamente, sei o non sei un vero rocker, ne sai o non ne sai. Quest'oggi parlavamo di Gene Simmons e vi chiedevamo perché è famoso il celebre diavolo della formazione dei Kiss. Forse come ipotizzato dalla soluzione A, per la lunghezza della sua lingua? Ma potrebbe essere, anzi, direi che è proprio eccolo così. Lì, mi spaventa sempre un po', risposta esatta, indimenticabili. Le sue performance live dove Gene, mostrando la lunga lingua, sputa sangue sintetico durante gli assoli di basso. Che delusione, era sintetico allora. Il sangue, sì. Io pensavo fosse avesse una riserva inesauribile di sangue. No. Quindi sbagliata la soluzione numero 2 che ipotizzava un 52 di piedi e sbagliata anche l'ipotesi C che ipotizzava un pistolone gigante nei pantaloni di Gene Simmons. Dunque, due bei punticini per la vostra patente di autentico rocker se avete risposto all'opzione A, alla soluzione prima, la lunghezza della sua lingua. Per tutti gli altri che hanno sbagliato, restate in contatto. Redazione prepara subito un paio di litri di sangue finto che ce lo sputiamo addosso, le va? Sì, dai, proviamo. Anche noi come Gene Simmons. You. C'ho il falsetto pronto, Garavelli, oggi. Mi viene così, scusa. I was made for loving you, baby. I Kiss. Qualcuno commenta la domanda del test. Siete sicuri che sulla lunghezza del membro di... Ma dai, per favore. Che vado a guardare nelle mutande di Gene Simmons, per favore. 8 e 36 minuti primi. Iniziamo l'ultimo blocco, 20 minuti ancora di diretta, ben sintonizzati e ben sintonizzate a coloro che hanno acceso la radio solo in questo momento. È una puntata molto particolare questa numero 116 che stiamo vivendo insieme, perché forse per la prima volta dall'inizio delle nostre trasmissioni stiamo vivendo un vero sondaggio democratico con i nostri radioascoltatori. Ripeto velocemente per chi non lo sapesse che vi stavamo chiedendo se pane, burro e rock and roll è a favore o contro Halloween. Perché? Perché Halloween è sicuramente una festa con un immaginario molto rock, ma la domanda che vi poniamo è: pane, burro e rock and roll non deve essere comunque contro tutto e tutti? E quindi rispondete, prendete posizione anche voi al 335-100-7777. Stiamo facendo il record di SMS quest'oggi e la cosa che mi dà veramente tanto orgoglio è che in percentuale il 95% dei messaggi dicono la stessa cosa. Non vi dico cosa, per non influenzare, per non sporcare il sondaggio puramente democratico, ma siete tutti, ragazzi, siamo pronti, cioè la nicchia vince, se siamo messi così siamo pronti per la rivoluzione. Iniziamo con l'ultima mezz'ora. Io ho qualche problema per quanto riguarda il calendario, non abbiamo calendari con donne nude, quindi se avete altre buone idee siamo pronti ad accogliervi a braccia aperte. C'era un'amica che chiedeva se, ecco, Martina da Pisa, ma se vado anch'io in missione per voi mi pagate? No, Martina, lo facciamo per la causa, capito? Come dicevano i NoFX qualche anno fa. Proseguiamo, che è meglio. I Giant di I Am a Believer. giochiamo a carte scoperte, sì. Una delle rubriche che abbiamo inaugurato a Pane, Burro e Rock and Roll si chiama Un corso per diventare come Roberto Fricantoni. Qualche malalingua sostiene che lei lo fa per soldi. Ma avrei comunque dei precedenti illustri, anche il grande Mike, per esempio, ha confessato di farlo solo per soldi. Quindi lo confessa, sottolinea questa cosa? No, assolutamente, no, non io. Lo non fa io, per là? Non io, lo faccio solo per Gloria, Gloria, un'amica, perfetto, carissima. Molto carina questa battuta, a proposito ci sta come una ciliegina sulla torta. Infatti volevo introdurre la rubrica. Introduca. Perché ha tantissimi iscritti, oh, questa rubrica. Non vedo l'ora. Quindi devo confessarlo, la modestia mi imporrebbe di tenerla, sì, un po' nascosta. Invece? Ma devo dirlo perché il successo è notevolissimo. Adesso posso finalmente sbottonarmi il corso Diventate anche voi come Fricantoni. Sì. È realtà. È una grandissima realtà che vogliamo testare con mano qui dalle, sì, frequenze di Rock FM. La redazione deve essere riuscita a rintracciare un ennesimo iscritto, sì, al corso per diventare, sono numerosissimi, come Fricantoni, chissà, sì, da dove chiama, chissà chi è. Pronto, benvenuto a Rock FM, chi sei? Sì, pronto. Pronto, eccomi qua, Gian da Genova. Gian da il gelataio. Bravissimo. Eccolo, sì, lì, l'iscritto al corso Diventare come Roberto Fricantoni. Sì. Che staziona davanti alla postazione telefonica, perché senso, ci tiene, Gian, ci, sì, tiene a fare una bella figura, cioè, ed è, dice, uno degli allievi migliori, è il migliori, più veloce, il più veloce a telefonare, a prendere la linea, mm, ed è anche il più attivo, devo dire complimenti a Gian che ha già spedito anche, sì, il suo secondo bollettino, complimenti, esatto. Senti Gian, vorremmo, sì, regalarti anche quest'oggi una perla dal repertorio del maestro Roberto Fricantoni. Ma non so se può aiutare, deve, la butto, deve, lì, deve, deve, la butti. Ecco, io direi questa soprattutto, sì, una volta toccato il fondo, sì, ecco, di solito risali, invece comincio a scavare. Non male questa, eh? Bella. Maestro, le sue massime sono sempre lezioni di vita. Esatto, bene, ricordiamo a volte che sono anche minime le mie, sì, massime, lo riconosco, ma non sempre. Lei è scemo, maestro Fricantoni. Ricordiamo agli ascoltatori il motto del corso per diventare come Fricantoni: allenarsi, allenarsi, allenarsi, allenarsi, Gian, perché è con l'allenamento che si diventa perfetti. Gian, ti sei allenato in questi giorni? Assolutamente, sto continuando ad allenarmi e vedo che divento sempre più forte. Lo sentiamo, perfetto, lo sentiamo, vuoi perfetto, regalarcene una delle perfetto, tue, per favore, ti prego. Allora, tocca a temi un po' scottanti, ma la cerco di dire vai. Più pulita possibile. Siamo allora, ribelli chi qui. Chi è che sovente ha rapporti sessuali con persone ubriache, soprattutto in ascensore? Aia. Questa è dura, questa è difficile. Non questa. Sono io e non è Roberto. Però sono molto curioso. Ci arrendiamo. Benissimo. Il montacarichi. Ah! Passi da gigante questo ragazzo. Passi da gigante. Grazie mille, caro Gian. No, aspetta, Cari, sì, sì, una cosa, maestro Freak. Sì, prego, posso? Prego. Maestro, senta, credo l'ultima volta di averle inviato per sbaglio due bollettini al posto di uno. Possiamo salutare. Io ho già chiesto di non parlare di queste Gian? Cose in onda, per favore. Sì, ma infatti salutiamo, grazie, l'amico Gian. Grazie. Buon proseguimento del corso. Ciao. È morto il telefono. Speriamo la prossima volta del corso per Fricantoni di trovarne un altro. Beh, lui staziona lì accanto. Ce l'avrà un amico. Ma un parente, non lo so, è molto attivo, però è, okay, sa, è un fervente ammiratore. Quando si è ferventi, grazie, si come ferve, si ferve, sì. Baby, decisamente una Black Night, quella che prosegue anche alle 8:49 minuti primi. Segnalo il record di funzionamento del lampione crepuscolare, che è ancora acceso, ragazzi. È la nostra carica, la nostra energia. Mai era arrivato fino a quest'ora della giornata ad essere ancora acceso, questo per testimoniare l'oscurità che ancora un po' avvolge la città dalla quale vi parliamo, Milano, in via Locatelli 1. Allora, siamo quasi al termine. Io assolutamente ci tengo ad aggiornarvi sulla situazione di Daniele, il padre Rock, che ieri abbiamo sentito in diretta telefonica. Si sarebbe recato nel pomeriggio a comprare la prima chitarra a suo figlio. Era un po' preoccupato perché l'abbiamo sentito, in realtà sembrava che ci credesse un po' più lui che non suo figlio. È andato tutto bene, dice che è orgogliosissimo, suo figlio ha scelto una chitarra molto semplice ma nera, quindi è sulla strada giusta. Ha dimostrato più gusto di me, scrive che avevo messo gli occhi su una BC Rich alla Wasp. Che tamarro, che padre tamarro. Grande sospiro di sollievo quando il piccolo Nicola ha snobbato la chitarra di Hello Kitty. L'hai scampata per un pelo, eh? Io rinnovo ancora l'appello a tutti i genitori Rock all'ascolto. Siamo curiosissimi di scoprire le vostre storie, di scoprire come educate i vostri piccoli pargori, le vostre creature sulla strada del rock. Ma occupiamoci del grande sondaggio di quest'oggi. Siete veramente tantissimi. Vi chiedevamo di schierarvi pro o contro Halloween, nel senso che qui a Pane, Burro e Rock and Roll bisogna capire se siamo pro una festa con un immaginario un po' rock oppure contro tutto e tutti. Ragazzi, un tripudio, noi siamo contro. Quindi è ufficiale, lo avete scelto. Da domani inizieremo una nuova campagna di sensibilizzazione contro Halloween. Provo a salutare Francis, Manolo, Lanci, Alba, Andrea, Paolo, li sto scorrendo al volo, Starman, Tom. Questo è uno che propone di aggiornarci sui bollettini della frutta al mercato di Milano. No, anche no. Salutiamo la nonna di Castagneto Carducci, che ha 101 anni e di Halloween non ne sa una sega. Isa, Carranza, Panico, Marco, Giba da Firenze, intanto Spadino, partiamo con la musica. Walter, un amico di Luca, Miguel, Miki Rock, Matteo, Mauro 72, il mitico appino degli Zen Circus, Cesare da Milano e ancora Cionco, Joe, lo zio, Davide 71, Laura Luca, e loro sono gli Halloween! Stop! Allora, gli Future World degli Halloween, la formazione Halloween, in tanti dei messaggi che erano arrivati per il nostro sondaggio dicevano contro Halloween, a favore degli Halloween, la band, quindi non ci siamo fatti scappare questo doppio senso nei vostri messaggi. Mancano 4 minuti alle 9 spaccate e quindi è tempo per noi di chiudere. Segnalo Mike, che scriveva: faccio parte del gruppo La Sera Beoni, la mattina Fricantoni. Si è messi male, ragazzi, è ufficiale. Questa è la fine, come dice anche Jim Morrison. End. In una versione sentitissima di This is the End. Andiamo con la sigla e chiudiamo questa puntata 116. Il pubblico di Pane, Burro e Rock and Roll è un pubblico contro. Non ci interessa cosa e perché. L'importante è essere contro. La tua colazione rock. È stata dura. Pane, burro e rock and roll. Very good indeed. Well, se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Yo. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Allora, prima di dare il buongiorno a Marco Garavelli, velocissimamente un paio di appuntamenti. Venerdì forse sono al Charlotte di Colle Salvetti, mentre l'altro appuntamento importante che devo ricordarvi riguarda il buon Freak. Giovedì prossimo, all'interno di Lucca Comics, il buon Fricantoni presenterà una follia, ovviamente, se c'è di mezzo Freak è per forza una follia, un fumetto, un bimestrale, che si intitola Freak, un fumetto dedicato a Fricantoni e che verrà presentato ufficialmente giovedì a Lucca, visto che siete in tanti ascoltatori toscani, passatelo a trovare a Lucca Comics. E allora finalmente il buongiorno a Marco Garavelli! Ah, buongiorno, sono assonnato, poi devo dire due cosine. Ringraziamo Letizia, che ci vuole tanto Cassica. Bene, ma oggi ci vuole tanto male. Letizia, spieghiamo, una delle nostre affezionate ascoltatrici che almeno una volta a settimana arriva con... A volte anche di più. Sì, almeno, con una decina di brioche freschissime. Anche di più! Tra le migliori di Milano. E in più quest'oggi però... Con aggiunta di panna montata. Una vaschetta di panna montata. È un attentato ai nostri addominali da tavola. Grazie Leti. E salutiamo sì. Anche i salumai invece di Buenos Aires. Attendiamo sempre... Qualcosa di affettato, di salumi. Salato, insomma. Hai parlato di Halloween questa mattina. Sì, e sì. Hai fatto ascoltare... I primi Halloween Future World. Ecco, sì. Esatto. Gli ultimi Halloween li avrò in intervista venerdì in Arden Davy. Già che ci sono, mi faccio pubblicità. Ah, era quello lì quello che è passato ieri? Quello che... No, dunque, quelli attuali li ho venerdì in intervista e li abbiamo già registrati un mese fa. Quello che è passato ieri era il cantante che adesso è nei Gamma Ray. Cioè, e li avremo provati. Però perdonami, sti Halloween non hanno nient'altro da fare che passare da Rock FM tutti quanti. Beh, è un piacere. Quindi appuntamento venerdì con gli Halloween, non con la festa. Con gli Halloween, la band tedesca. E quello registrato ieri invece più avanti, quando esce il disco. Ok, Garavelli, buon proseguimento di giornata. Te li tratto bene, grazie. Vi lascio con Frigo e Rogna, a domani. Ehi, Frigo. Sì, Rogna. Certo che da quando ci fanno ascoltare la radio, a me le mattine passano più in fretta. Hai ragione, Rogna. Questa pane, burro e rock and roll mi piace un casino. Sì, è vero. Tanto più che rock and roll, a pensarci bene, è proprio una ficata. Sì, è proprio figo. Ma lo sapevi che sta stato inventato da un topo. Cosa? Il rock and roll. Ma non dire cazzate, Rogna. Guarda che è vero. Si chiamava Topo Memphis ed un giorno cadde nelle mutande di un certo, mi pare, Elvis, che stava suonando la chitarra. E da lì, dallo scuotimento, nacque il rock and roll. Ma dai. È proprio così. Fico. Fichissimo.